Ciao. Allora, innanzitutto grazie di essere venuto nella nostra umile sauna e ti ruberemo un po' di tempo. Se hai voglia intanto di presentarti, chi sei, da dove vieni, quanti anni hai? Allora, grazie innanzitutto di aver invitato la nostra associazione. Io sono Luca e faccio parte di Arci Gay e in modo specifico del comitato di Livorno, di Arci Gay Livorno. Ok. E nella vita, oltre all'associazione, cosa fai di bello? Allora, a parte che l'associazione mi prende quasi il 100% della mia vita, no, a parte gli scherzi perché mi ci dedico molto. E io sono un cuoco barra barman, faccio, diciamo, lavoro nella ristorazione, ormai da mamma, 11 anni, ho perso il conto. Ok, grazie. E invece come sei arrivato qua a Vialfrè? Allora, devo innanzitutto ringraziare Mariangela. Angela Botta, che ha invitato la nostra associazione nazionale, ovviamente, a partecipare a questo campo. In specifico, poi ha chiesto, più che chiesto, ha preteso la mia presenza perché ci conosciamo ormai da tempo. E infatti, è grazie a lei che ho avuto questa opportunità immensa di partecipare al campo nazionale dei Cingei. E quindi, conoscendo Mariangela e da questi primi giorni, dalle tue conoscenze, diciamo, pregresse, se vuoi raccontarci quali sono i valori di Arci Gay e i punti in comune che si possono trovare con il Cingei. Allora, Arci Gay trova molta condivisione con i valori del CNJ perché sono quasi simili, no, non in tutto, ma quasi simili perché i valori di solidarietà, di automutuo aiuto, di condivisione, di aiuto del prossimo, ci sono anche in Arci Gay, ovviamente declinati alle battaglie politiche che fa la nostra associazione, ma sono quelli che fondano, diciamo, le radici di tutte e di tutti i nostri soci in Italia. E come funziona quindi la Arci Gay, cioè le mission e la modalità, diciamo, pratica in cui si muove? Allora, Arci Gay si trova in circa 76 comitati in tutta Italia, con più di, se non mi ricordo male, di 300.000 iscritti, sempre in tutta Italia. Attraverso i nostri comitati, Arci Gay riesce a fare un'azione politica e anche aggregativa sociale, con sia le rappresentanze politiche delle varie amministrazioni di qualunque livello, dal semplice comune alla regione intera e anche poi al nazionale con i nostri rappresentanti nazionali, e comunque riusciamo anche a creare diciamo, dei luoghi. Le nostre sedi sono luoghi di svago dove persone che appunto si riscoprono omosessuali, lesbiche, trans, bisessuali, intersessuali del tutto il mondo che gira intorno alla comunità LGBT, le nostre sedi sono un punto di svago perché le persone che vengono riescono a sentire, a essere se stessi e se stesse senza nessun pregiudizio alcuno da parte della società, purtroppo. Ok, grazie. E, a livello storico, che cambiamenti ci sono stati all'interno dell'associazione? Mi riferisco al nome, visto che appunto mi hai preceduto e hai già citato le varie sfumature che non sono direttamente intuibili dal nome stesso, ecco, della sfera della sessualità, eccetera. Innanzitutto, Arci Gay nasce nel 1985, ormai sono 33 anni fa, e nell'85, quando è nata, avevamo una situazione molto tragica perché eravamo in piena epidemia di AIDS. Infatti, ci sono stati purtroppo tantissimi morti in quel periodo lì. E Arci Gay è stato, diciamo, un faro di luce nel buio di tutta la situazione che si era creata. Infatti, ha cominciato come prima cosa a informare e formare le persone che prima sul territorio bolognese, perché la sede storica è a Bologna, ma poi in tutta Italia su queste tematiche qui. E poi ovviamente abbiamo cominciato a lavorare sulle rivendicazioni dei diritti, di quei diritti che non ci sono o ci sono in parte misera, a mio parere, della comunità gay. appunto, come dicevi te, Arcigai ha avuto un grosso cambiamento. Infatti, inizialmente l'associazione era nata Arcigay, Associazione Gay e Lesbica Italiana, ma si parla del 1985. Negli anni che comunque poi, diciamo, crescendo l'associazione, crescendo anche le partecipazioni all'associazione, abbiamo cambiato, diciamo, sia il nostro acronimo che comunque le nostre attività, le nostre politiche, i nostri momenti aggregativi in Associazione Arcigay, Associazione LGBTI Italiana, che l'acronimo, appunto, come detto prima, vuol dire lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali. E per ogni lettera che abbiamo diciamo, nel nostro logo, nella nostra mission, abbiamo delle rivendicazioni da portare avanti. E quindi Arcigay porta avanti tante battaglie, non solo nell'ambito, appunto, dei diritti, ma anche nell'ambito legale e psicologico. Infatti, Arcigay dà supporto gratuito, sia psicologico che legale, a tutte quelle persone che ne fanno richiesta, che hanno subito per X motivo discriminazioni a stampo omofobo, transomofobo o via dicendo. Tu, per esempio, perché ti sei avvicinato a questa associazione? Io devo dire, mi sono avvicinato a questa associazione qualche annetto fa e devo dire che è proprio la stessa associazione che è riuscita a farmi fare coming out con mia mamma, perché mi ha aiutato a crescere, a farmi conoscere soprattutto, che comunque io non ero sbagliato, non ero una persona malata, e via dicendo. E appunto, grazie appunto all'Arcigay sono riuscito a essere me stesso in tutto e per tutto. Piccola parentesi, se volete vi racconto il mio coming out un po' assurdo, che avevo detto quasi a tutti che ero gay, che ai miei amici, ai miei parenti, tranne a mia mamma. Ma non perché avevo paura di mia mamma, anzi, è tutto l'opposto, ma perché non me la sentivo ancora. Poi a un certo punto ho deciso di aprire un piccolo comitato d'Arcigay in provincia di Livorno e sono finito in prima pagina con il mio bel sorriso e mia mamma mi ha detto: "Ma mi devi dire qualcosa?" Diciamo, è stato un coming out, diciamo, da ricordare, pubblico, ecco. Secondo te oggi quali sono gli stimoli delle persone a iscriversi? Cioè, più che a partecipare agli eventi, proprio a coloro che diventano militanti, diciamo, dell'associazione? Diciamo che gli stimoli possono essere tanti, come hai detto te, a parte la parte aggregativa che possono essere discoteche o momenti di incontri e svago. Secondo me, nella situazione politica che ci ritroviamo attuale, essere in un'associazione dove riusciamo a essere in primis noi stessi, in tutto e per tutto, etero, gay, trans o lesbiche o bisessuale, chiunque si può iscrivere ad Arcigay. Ma soprattutto, come dicevo, nella situazione politica che ci ritroviamo, essere un'associazione che porta avanti l'uguaglianza in tutto e per tutto, non solo per la comunità gay, ma a 360 gradi per le persone migranti, per le persone disabili, per gli anziani e via dicendo, di entrare a fare attivismo in un'associazione del genere, secondo me è molto stimolante perché appunto affrontiamo varie tematiche a 360 gradi. Ovviamente la nostra associazione ha una connotazione legata alla comunità gay, però comunque sono, appunto, essendo le persone omosessuali come le persone eterosessuali, hanno gli stessi problemi sotto a vari ambiti delle persone eterosessuali. Ok, ma pensi che, cioè, anzi no, ci sono degli iscritti minorenni, ragazzini o soprattutto adulti? La nostra associazione ha un gruppo giovani nazionale che si chiama Arcigay Giovani e si possono iscrivere dai 16 anni in su. Per esempio, nel mio comitato a Livorno abbiamo un bellissimo gruppo giovani con più di 30 fra ragazze e ragazze, è meraviglioso, di persone che vanno alle superiori, quindi appunto dai 16 anni in su, alcuni anche meno, però non possono ancora fare la testa, però gli piace partecipare ai nostri eventi. E sono dei ragazzi bellissimi e attivissimi. Per esempio, ora in questo momento, mentre io sono qui a Vialfrè con la mia associazione nazionale a parlare appunto a tutti gli scout che sono al campo nazionale, contemporaneamente a Livorno c'è un altro evento che porta nella città di Livorno più di 60.000 persone che si chiama Effetto Venezia. dove Arcighei Livorno ha uno stand dove presenta l'associazione e lì ci sono solo i gruppi giovani perché hanno voluto proprio loro fare questa attività. E devo dire che i giovani in tutta Italia sono veramente motivati e veramente riusciamo a definirli in un modo che saranno l'attivista del futuro e saranno di certamente degli attivisti bellissimi. E invece gli scout in che modo possono rapportarsi con la tua associazione? Gli scout, appunto, come ho detto prima, condividiamo molti valori insieme e si possono rapportare con noi ovviamente sulle tematiche che riguardano Arcigay, appunto la parità dei diritti e tutte le questioni della comunità gay. Per esempio, ho visto che all'interno di Cingei Nazionale esiste un gruppo LGBT. Che è bellissimo, sono meravigliosi. E tramite anche loro si può chiedere un intervento di Arcigay o delle collaborazioni. Ricordo per esempio che a Svegliati Italia del 23 gennaio 2016, che ha portato in Italia più di 1,5 milioni di persone in piazza in vari punti d'Italia. Per esempio, la mia esperienza a Livorno eravamo più di 2,000, cioè una cosa immensa, una folla che girava per Livorno. E c'erano anche gli scout Cingei e sono voluti essere parte integrante dell'organizzazione. Quindi questo cosa vuol dire? Secondo me Arcigay e Cingei riescono a consolidarsi insieme nelle proprie attività perché comunque condividiamo gli stessi valori. Invece, per quanto riguarda i migranti, cosa intendi? Allora, per quanto riguarda i migranti, anche qui abbiamo, diciamo, una sezione che si occupa proprio di migrazione, di persone omosessuali. Infatti c'è il nostro responsabile nazionale che si occupa di aiutare le persone che arrivano da paesi africani, ma anche da paesi asiatici o da altre parti del mondo e chiedono asilo politico, in Italia perché nei propri paesi possono essere purtroppo uccisi o incarcerati. E quasi in tutti i comitati d'Italia Arcigay dà un sostegno anche lì. Psicologico in prima battuta, ma anche legale per aiutare l'accoglienza e le associazioni, le cooperative che fanno accoglienza. Infatti, spesso veniamo chiamati da cooperative, associazioni e via dicendo che fanno accoglienza per aiutarli diciamo, a trattare le tematiche insieme a loro. Bene, grazie. Infine volevo chiederti se ti sta piacendo questo campo. Ti vedo un po' provato. Molto provate. Avrei un sacco di altre domande, però. Ah, vabbè. Allora, questo campo, anche se è iniziato solo da 2 giorni, è il terzo giorno. Sono già sfatto, ho perso 40 kg. No, non è vero. Magari, oserei dire. Però è meraviglioso avere più di 4.000 ragazzi di varie fasce d'età in un campo così e vederli gioiosi, vederli sorridere e faticare a costruire le cucine e montare le tende. Lo so perché anch'io ero scout e devo dire che è molto faticoso. E vedere le loro facce e poi venire a fare le nostre attività è veramente una cosa meravigliosa. E poi se posso dire, si può dire, oddio, Dillo, la dillo. cucina è meravigliosa. Si mangia bene, ovvia. Bene, bene, grazie mille allora. A presto. Grazie. Ciao. Ciao. Vado di fretta.